Friuli nel mondo. 48esima trasmissione dedicata agli emigrati. Vendemmia in Friuli. Il nostro indimenticabile Chino Ermacora, quando scrivendo dei vini del Friuli, affermava che i gioielli di una regione non riposano soltanto nei monumenti, nel paesaggio, nelle opere d'arte che custodisce. Gioielli vanno anche scoperti nelle sue cucine e nelle sue cantine. Non è vero forse che cibi e vini sono intimamente legati al ricordo di una località che abbiamo visitata? Prendete un qualsiasi libro o un qualunque articolo che tratti del Friuli e vedrete che ad un certo momento lo scrittore o il giornalista avranno inserito nel loro scritto almeno un richiamo o un accenno ai nostri vini. Ed è naturale. Già nel 400 il cronista veneziano Marin Sanudo ebbe a dichiarare che a Rosazzo sono i miglior vini d'Italia. E nel 700 il grande commediografo Carlo Goldoni levava dalle pagine delle sue memorie tutto un alato inno al Tokai. E a voler risalire addirittura a tempi remotissimi, basterà ricordare che Plinio il Vecchio, vissuto nel primo secolo d.C., loda le virtù del Pucinum da identificarsi quasi sicuramente col refosco come datore di lunga vita. Non può far dunque meraviglia che con tanto illustri precedenti in gloria dei loro vini, i friulani siano senza eccezioni gagliardi bevitori. Ne può meravigliare che si abbiano dedicato all'aromatico figlio della vite questo canto. Tempo di vendemmia ora in Friuli. Fra il litorale di Grado e l'Alpe Carnica, tra i Veneti Giugli e gli Euganei, si rinnova il rito, antico come l'uomo, della raccolta dei grappoli, che con il loro colore danno un volto ancora più lieto al paesaggio. Rito antico in ogni parte del mondo, e pertanto anche in Friuli. Basterebbe a dimostrarlo il fatto che il suolo di Aquileia, la città segnata col solco primogenito come Roma, restituisce a migliaia anfore vinarie. Come le arti decorative aquileiesi, nei triclini, nelle tombe, nelle basiliche, accompagnano alla vita e al vino il fasto, la pietà e la preghiera degli uomini. Dalla vendemmia, dalla raccolta e dalla pigiatura dei grappoli, colerà nei tini e nelle secchie prima e poi nelle botti, il soave vino che è l'allegria della mensa, ristoro delle membra, simbolo d'ospitalità ed amicizia, fonte, se bevuto intelligentemente, di sani pensieri e suggeritore di canti, e soprattutto premio di tanti sudori per il contadino. Lo dice anche la villotta, vin sudat un an parfalu, un anno di fatiche al fine compensate. Ispiratore di generosi sensi, il buon vino del Friuli è profondamente inserito nella vita del nostro popolo. Non per nulla a Sedilis sopra Tarcento c'è una vite che sbuca dalle fondazioni di una casa. E non per nulla, come riferisce un verbale del 1760 della vicinia di Vendoglio, certo Antonio Calobrino fu condannato a pagare, per aver offeso l'intera comunità, due soldi di pane e una boccia di vino a tutti gli uomini del comune. Quando non si voglia ricordare quel documento di Gemona del 1311 che accenna ad una garanzia di pagamento di singolarissimo genere, un bicchiere di vino in segno di ricevuta. Magnifico vino del Friuli, sia esso il refosco di Albana o il merlotto di Spessa, di Aquileia, di Casarza, di San Giorgio della Rivincherda, o l'ambrato verduzzo di Faedis e il profumato ramandolo di Torlano, o la ribolla e il picolite di Rosazzo, o il pinotto di Farra di Sonzo e delle alture del Calvario, o il marzemino di Gradiscutta, o lo schioppettino di Prepotto. Si è infine il tocai di Butrio e del vicino Collio, dell'Ison, di Cormons e di Medea, o il Canerbet e il Sauvignon. Essi costituiscono una gioia della vista, dell'olfatto e del gusto, come vuole una vecchia regola, di cui si è fatto ecco un proverbio istriano. Occhi, naso, bocca, a tutti tre che tocca. E sono insieme complemento del paesaggio, perché il vino va bevuto nel quadro del paese, con la mente e il cuore rivolti alle costumanze del luogo. Come si farebbe, ad esempio, a bere il vino di Latisana, sede di una pregiata cantina sociale al pari di Casarza, Cervignano, Pordenone, Rauscedo e San Giorgio della Ricchinvelda e Codroipo, senza ricordare la balda quasi marziale villotta che ne tesse le lodi. Vino anche la tavica malinconia, dovuta a esodi e dolori senza fine, propria del nostro popolo, si mitica, si scioglie, cede addirittura il passo alla gioia, o quantomeno alla spensieratezza, all'oblio, sia pur temporaneo, delle quotidiane afflizioni. Così come mirabilmente canta il poeta Tony Bauzon, che risulta essere stato bevitore di sicuro gusto e che ci ha lasciato, fra gli altri, questi bei versi delle Vilotis dal Vin. Col sorelli a mons in vie, o mi sinta strenzi il cur, o c'è gran malinconie, con olè né clar né scur. e in cemut parà le vie, cence viodi il caratel. Dunque, aninta lo starie, e fasingui cal spinel. Quarte un doppio di ribuele, quarte un altro di nostran. Pur un chian, ma no di squele, cal sei legri e mataran. Su, chiantin la lingla lele, su, chiantin la lingla la, son li srenghi sin gardele, alle pronti il bacalà. Se vin vuoi della sachete, che l'ustir non fasi il mat, paiarin sulla galete o sul prat di Josafat. Frequenti in Friuli le sagre del vino che ogni paese si può dire vanta e tramanda. E ciascuna sagra si fa occasione di amichevoli incontri, di manifestazioni di gioia misurata e serena, bando ai racconti quel giorno, bando ai litigi. Ci si trova dinanzi a un chiosco o a un tavolo d'osteria con un bicchiere di vino in mano e con gli occhi senza corrucci. E nella trasparenza della bevanda e dello sguardo par quasi si rifletta una limpida purezza della buona terra che ha generato la vite e gli uomini del Friuli. E con il vino, il giorno della sagra, le specialità tipiche della zona, con si fatti doni della terra, come non indulgere dunque alla comprensione e alla letizia. E poco male se intanto viene fuori anche l'innocente canzonatura dei giovani per i vecchi, degli scapoli per gli sposati. A proposito di osterie, varrà la pena di ricordare che molti sono i locali in Friuli che recano all'interno scritte di questo genere, Furlan, Nolbef, Aghe. Certo è un invito a bere e a bere sodo, ma tutto sommato è anche una verità, quando si pensi che i friulani consumano una quantità doppia del vino che producono, oltre 1 milione di ettolitri contro il 500.000 di produzione annua locale, il che equivale a conti fatti a un consumo medio di oltre 150 litri l'anno per persona. Ma sempre a proposito di vendemmia, ascoltate ancora alcuni versi di Enrico Fruc da Lis Vilotis de Ue. I vignai cumos indorin, su paiquei e vie palplan, e il soreli di settembre urdarà l'ultime man. Ecco lue pardut madure, iupe braide e palstradon, fin tramai bocchie ce ustu, su palmur iupal balcon. Celligrie furpe campagne cosonducchia vendemà, coscomenzin gli sfantatis morbinosis a chiantà. E non importa se talultin son spueas ducci vignai, che finite la vendeme si preparin i bocai. Ie vendeme e pe campagne ecco i fruits son sparnisas, e cocciati in la ribuele ducci intor come li sas. La sai pur che i fruits la gioldin princa il capiti il branchiel, clamai d'ogni i fruits che chialin, daite i fruits il rapplo i biel. C'è delizie un rap denestre consumate a planca planca, ogni gran calnade in voce alle umor calvata al sang. C'è delizie un rap di blanche la mattina in sonda lor, e la sera un rap di nere sot la piargule de cort. Nus riguarde i viei di chiase che spuiul cu la sovì, benedez che nus lasarin la quiete di quest sì. Stei lontane la tampieste e rispieti che spuiul, benedet mattina e sere il soreli dal Friul. Festa del cuore la vendemmia e insieme festa del lavoro, e per gli emigrati ragione di nostalgia. Proprio un emigrato, un friulano di Torreano residente in Tanganica, Antonio Piccarò, tornando quest'anno in Friuli dopo quasi un decennio di assenza, ci confessava che se egli soffriva d'un male non era il mal d'Africa, ma il mal dal Friul e de nostalgie del Tocai. È lecito supporre che sia un po' il male di tutti indistintamente coloro che all'estero ci ascoltano. Buoni friulani e quindi buoni bevitori, in molti casi addirittura buoni alpini, e perciò buoni bevitori due volte. Alla salute e alla fortuna di tutti, voi o emigrati, l'ente Friuli nel mondo alza idealmente il bicchiere. Viva, viva! Abbiamo trasmesso Friuli nel mondo, Vendemmia in Friuli, 48esima trasmissione dedicata agli emigrati. Testo e adattamento di Dino Menichini e Ermete Pellizzari. Hanno collaborato Ottavio Valerio e il coro di San Lorenzo di Sedeliano diretto dal maestro Leandro Plenizio. Musiche di Mario Macchi e canti popolari.